Beh, accogliamo con ennesima profonda tristezza la perdita di vite umane per questi eventi estremi meteorologici che aumentano sempre di più. Nelle ultime 72 ore sul sito meteorologico europeo in Italia si sono contate 60 eventi meteorologici estremi. Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 18 miliardi di euro di danni, tra danni alle abitazioni, economia, imprese, infrastrutture civili. È un qualcosa di inaccettabile e davanti a questo mi viene solo da rispondere che la Meloni, che ci ha risposto in aula dicendo che lei è portatrice di una transizione ecologica pragmatica, ecco, questo pragmatismo si traduce nelle proposte che hanno fatto in questa manovra economica, ovvero di fare una assicurazione obbligatoria sugli eventi calamitosi per deresponsabilizzare il governo dall'attuare e prendere le necessarie e urgenti politiche sul clima. Adesso sappiamo, lo vediamo col piano Mattei, vogliono trasformare l'Italia in un hub del gas, nella finanziaria hanno tolto i fondi al clima, al trasporto pubblico, alla difesa del suolo, vogliono spendere 12 miliardi di euro sul ponte e sullo stretto quando avremo altri tipi di urgenza che la cronaca di queste ore ci indica. Nell'agosto scorso era terminato l'iter preliminare, diciamo così, del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Che ne è stato? Ma sta fermo al Ministero, ha terminato anche la valutazione ambientale strategica, ma questo piano, una volta che sarà firmato il decreto da parte del Ministro, sarà un piano già vecchio, perché è un piano di una bozza del 2018 e con questi nuovi eventi meteorologici estremi sono saltati tutti i modelli di previsione. È veramente inadeguato il modo di stare avanti, ma quello che ci preoccupa è questo atteggiamento ideologico da parte di questo governo, che si accinge a fare una campagna elettorale per le europee dicendo che è necessaria una transizione ecologica pragmatica. Intanto ogni anno paghiamo decine di miliardi di euro di danni economici, vite umane, perché si vogliono ritardare le politiche sul clima. Cosa sarebbe necessario invece? Sarebbe necessario e urgente approvare una legge sul clima, cambiare una politica energetica, il governo vuole trasformare l'Italia in un hub del gas, noi dobbiamo invece liberarci dalla dipendenza delle fonti fossili che sono responsabili di questi eventi meteo estremi, ma anche perché oggi il gas fa pagare le bollette agli italiani, alle famiglie in modo così chiaro che sta portando a un massacro sociale, quindi liberarci da questa dipendenza e costruire politiche sul clima, dallo stop al consumo di suolo, politiche energetiche basate sulle rinnovabili e approvare immediatamente il decreto legge sulle comunità energetiche, che è bloccato anche questo al Ministero dell'Ambiente.